Siamo arrivate all'intervento di Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice dall'ungherese, divulgatrice, ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca e per 4 anni con la casa editrice Zanichelli. Ha insegnato come docente a contratto all'Università di Firenze per 18 anni e da settembre 2021 è ricercatrice di tipo A presso la stessa istituzione. Anche lei ha l'attivo a numerosissime pubblicazioni, tra le più recenti quella dello scorso anno, già citata parlando di Federico Falò, Trovare le parole, abecedario per una comunicazione consapevole, e per Einaudi, sempre dello scorso anno, Le ragioni del dubbio, l'arte di usare le parole, e ce n'è forse qualcuna che è uscita proprio sta uscendo in questi giorni. Il suo intervento si intitola Elogio del margine linguistico. Questioni di genere in italiano tra norma e uso. Grazie per essere qui. Grazie, grazie. Sì, uscirà il 12 maggio un libricino molto piccolino che si chiama Chiamami così e che esce per il margine, tanto per rimanere in tema, che è parte di Erickson, è una casa editrice molto carina ed è un libro di meno di 100 pagine che è la versione scritta di una conferenza che ho tenuto proprio per Erickson a Rimini a novembre. Ed è una cosa a cui tengo molto perché forse per le dimensioni va verso come si dice, un tipo di lettori che magari manuali più grossi fanno fatica a affrontarli. Quindi insomma spero che funzioni. Avevo delle copie, ma essendo che sono in giro da mercoledì, le ho disseminate nei vari posti in cui sono stata e quindi sono arrivata a mani vuote, ma insomma a un certo punto si potrà avere. Prima di partire col discorso che mi ero preparata, volevo attaccare il discorso di Ethan Bonali, no, volevo attaccarmi al discorso di Ethan per fare un'aggiunta, fare anzi due aggiunte. Tutto quello che è stato detto riguarda un fenomeno che in ambito accademico, anche non nell'ambito dei queer studies, è noto ed è studiato, ed è un fenomeno a due facce. La prima faccia è quella della relazione che c'è fra lingua e potere. Non tutte le persone hanno lo stesso modo di agire con la lingua, e da una parte questo significa che chi è in cima alla piramide dei privilegi, ma soprattutto chi detiene un certo tipo di potere, ha modo di definire quale sia la lingua corretta e poi di decidere chi è dentro e chi è fuori. E per questo volevo leggere una piccola citazione di Tullio De Mauro, che è del 1975, quindi non esattamente dell'altro ieri. Lui ne tratta in un bellissimo volume che a posteriori raccoglie tutti i suoi scritti sull'educazione linguistica democratica, che infatti si chiama L'educazione linguistica democratica, che è uscito un paio d'anni fa, non me lo ricordo, non ce l'ho sotto mano e la citazione l'ho ripresa adesso perché la sentivo come necessaria. La citazione dice: L'addestramento che diciamo monolinguistico risponde a due necessità, a nostro avviso presenti in ogni società che conosca distinzioni di classe, dunque anche in società pre e non borghesi. La prima necessità è quella di disporre di un modello applicabile in modo facilmente iterabile. Naturalmente è una necessità che avvertono le classi dominanti. Chi gestisce il potere ha bisogno di perpetuare la classe cui appartiene, col minimo dispendio e il minimo rischio. Vi è poi una seconda necessità, un'educazione espressiva, fatta privilegiando la capacità di adeguarsi a un formulario, a uno stile che la classe dominante possiede come patrimonio abituale, consente di aprire e chiudere facilmente, aumentando o riducendo la permissività. Nel senso di decidere chi sta dentro e chi sta fuori, no? Chi si sta comportando secondo le regole della società e chi invece no, e quindi viene, non solo vive ai margini, ma viene ulteriormente marginalizzato. Consente cioè in modo facile di regolare accrescimento o riduzione dell'immissione di nuovi soggetti nei gruppi dominanti. Cioè c'è un controllo sociale che è anche un controllo linguistico che passa anche dalla definizione di una norma. E quindi dalla decisione di cosa è sbagliato e cosa è giusto dire. E questo è profondamente collegato al discorso che faceva Ethan, soprattutto sulla parte della. E su Federico, e quello che faceva Federico Faloppa, cioè sulla questione della percezione del politicamente corretto. Non sono le minoranze marginalizzate che si adombrano per il politicamente corretto e denunciano di non poter più dire nulla. Sono proprio le persone che fanno parte del gruppo dominante che in realtà vorrebbero continuare a avere la piena libertà di insultare chi appartiene a categorie marginalizzate e che finora, essendo in quella posizione lì, non aveva neanche modo di far sentire la propria voce o la propria indignazione. L'altra faccia della relazione potere-lingua è una cosa che si chiama ingiustizia discorsiva. Ne parla in maniera piuttosto approfondita Claudia Bianchi in un libro uscito, mi sembra, l'anno scorso, forse 2 anni fa, perché col Covid non capisco più niente, cioè con questo momento pandemico non riesco a distinguere 2020 e 2021. Comunque il libro si chiama Hate Speech, il lato oscuro del linguaggio, e lei, per parlare dell'ingiustizia discorsiva, fa il caso di Orgoglio e Pregiudizio. La protagonista Elizabeth, che a un certo punto subisce la corte del cugino brutto. Il cugino vuole sposarla a tutti i costi e quindi le fa tutta questa filippica, che loro si devono sposare. Tutto questo ovviamente in salsa romantica, no? Quindi un gran dispendio di energie linguistiche. E lei, nella sua posizione di donna, in una società in cui la donna aveva pochissimo modo di muoversi, risponde con altrettanta gentilezza e salamelecchi, però fondamentalmente frenzonandolo, no? Quindi lo mette e dice: guarda, bello tutto, bella boiserie, però grazie ma no grazie. Però lo dice: capisco il grande onore che voi mi fate con la vostra proposta, però mi dispiace ma non c'è trippa per gatti. Qual è la reazione di lui? Quella di dire: ah, che carina, dice no ma in realtà è sì, che è una roba che credo qualsiasi, soprattutto persona non maschio, non cisgender, ha vissuto almeno una volta nella vita, perché di solito succede di più, diciamo, ai secondi sessi, come li chiama Chiara Bottici in questo bellissimo pamphlet che si chiama Manifesto Anarca-Femminista, che ho avuto modo di presentare di recente. Elizabeth insiste dicendo: no, no, ma guarda, davvero non sono interessata, e lui continua a dire: no, ma io lo so che voi ragazze per bene insistete a dire di no quando in realtà desiderate moltissimo questo matrimonio. Noi vanno avanti così per 3-4 pagine. Ecco, questo è un esempio di ingiustizia discorsiva. Allora, quando si parla di politicamente corretto, di uso della lingua all'interno della società, non dimentichiamoci questi due poli che creano squilibrio. L'intreccio, il nodo gordiano, direi, fra lingua e potere, e il fatto che non tutte le persone hanno la stessa possibilità, per citare John Austin, di fare cose con le parole, cioè di far arrivare in porto le proprie parole. In parte lo vediamo ancora oggi, cioè tutti i maggiori media tradizionali, quindi i mezzi di comunicazione di massa tradizionali, insistono su questa lettura della dittatura del politicamente corretto, della cancel culture, eccetera, eccetera, eccetera, della wokeness, dei social justice warriors, come sarei anch'io, no? Quindi questi sedicenti guerrieri per la giustizia sociale, non vedendo appunto la luna, ma concentrandosi sul dito. E la luna è appunto che la nostra società è profondamente iniqua per moltissime realtà marginalizzate, per molti tipi di esseri umani che non hanno di per sé nessuna colpa, se non quello di essere sbagliati agli occhi di una società che è normocentrica. E il sistema si autoalimenta, no? Per cui sui media tradizionali rimane questa impostazione qui. Sui mezzi di comunicazione della massa, come li chiamo io, cioè per esempio social media, succede che finalmente attiviste, attivisti e attivist riescono anche a prendere la parola e quindi a dare una loro visione dei fatti, che è sempre minoritaria rispetto a quello che passa alla televisione e ai giornali, ma almeno inizia a farsi sentire. Detto questo, in realtà sarò molto breve, voglio solo dare degli spunti. Si parla tanto di linguaggio inclusivo, io preferisco parlare, seguendo attivista più sul pezzo di me, di linguaggio ampio, perché l'idea di inclusività, come mi ha fatto notare Fabrizio Acanfora, la considero limitante, perché inclusività continua a presumere che ci sia qualcuno che ha il potere di includere e qualcuno deve essere incluso, e quindi sotto sotto c'è un certo grado di paternalismo nella definizione inclusione, inclusività e anche linguaggio inclusivo. Fabrizio Acanfora, in un bel libro che si chiama In altre parole, parla di convivenza delle differenze, e sottolineo la preposizione articolata delle, perché non vuol dire che conviviamo con le differenze, ma che siamo tutti, tutte e tutte reciprocamente differenti, e quindi questo movimento di convivenza deve essere a sua volta reciproco. L'idea è di togliere la prevalenza, diciamo così, di un punto di vista e vederci per quello che siamo. Cioè non c'è qualcuno che intrinsecamente debba valere più di qualcun altro. Se si dice così apertamente, sembra l'invenzione dell'acqua calda, una questione di lana caprina. È ovvio che valiamo tutti allo stesso modo, che siamo equivalenti, ma in realtà nella pratica non è così. Chi è di genere non conforme? La stessa definizione di genere non conforme presume che ci sia un genere conforme, no? Chi ha la pelle di colore, presumendo che ci sia chi ha la pelle non di colore? Recentemente c'è stata tutta la polemica sul color carne. Dire il vero, la carne è rossa, eh? Cioè se ci tagliamo, quale che sia l'epidermide in superficie, dentro siamo tutti ugualmente rossi, pieni di sangue. Quindi color carne perché è quello delle calze? Anche quello è la riproduzione di un punto di vista privilegiato, di cui spesso non ci si rende conto. Le persone con disabilità, che finalmente magari non vengono chiamate handicappate o disabili, ma con disabilità, no? Sottintendendo che è una loro caratteristica, ma che non le riassume, anche loro sono disabili, no? E quindi c'è la persona abile e c'è la persona che invece è portatrice di una disabilità. Così le persone neurodivergenti o neuroatipiche, così le persone con corpo non conforme, di solito le persone grasse, perché il nostro è anche un mondo grassofobico, e potrei andare avanti. Come ha fatto notare Ethan, ovviamente queste diversità si assommano, ma è qualcosa di più. Come ci spiega Kimberlé Crenshaw quando definisce l'intersezionalità nel 1989, in realtà non è che se tu sei nera, lesbica e povera hai tre caratteristiche che si assommano e ti rendono ancora più marginalizzata, ma hai tre caratteristiche che agiscono in forma logaritmica, quindi a cascata, no? Un effetto valanga. Quindi una persona che ha più caratteristiche che la fanno divergere da una supposta norma sta molto peggio che non la somma delle singole marginalizzazioni. E quindi questo ricordiamocelo. Guardiamo un attimo però tutto questo discorso, come mai è in questo momento che emerge. Perché secondo me forse questo è uno delle cose che possiamo aggiungere al dibattito. Credo che in questa sala, in linea di massima, siamo tutti, tutte e tutte d'accordo sulla positività di quello che sta succedendo. Cioè stanno emergendo delle problematiche sociali, culturali e linguistiche che secondo me è stragiusto che emergano. Ma perché proprio adesso? Beh, chiaramente da una parte la globalizzazione, dall'altra internet, che hanno reso questione quotidiana l'incontro con le diversità, che non è assolutamente qualcosa di strutturalmente naturale per l'essere umano, che anzi di suo è omofilo e xenofobo. E quindi davanti al diverso ha bisogno di un nerbo sociale e linguistico che gli dica in che direzione andare. Siamo fatti un po' così. Questo lo dice bene Telmo Pievani, non me lo sto inventando io. D'altro canto però, abbiamo questa tendenza quindi a vedere di più la diversità, dall'altra una naturale inclinazione a vederla come qualcosa di minaccioso, che minaccia lo status quo e minaccia noi attraverso la minaccia dello status quo, e però qualcosa si sta muovendo, no? Anche per ribattere a chi dice che è una moda. E a me è successo proprio recentemente di avere una discussione con una persona illuminatissima che si occupa di una certa minoranza marginalizzata, ma evidentemente non delle altre, no? E quindi solo di quella, che mi diceva: no, ma questa del genere fluido, del genere non conforme, è chiaramente una moda. Ora, non si diventa gay per prossimità, come non si diventa transgender per prossimità, non si diventa persone trans perché si vedono altre persone trans. Quello che però sta succedendo forse è che all'interno di un contesto sociale e culturale pop soprattutto, che rende visibili certe caratteristiche umane, è probabile che più persone, soprattutto giovani, si facciano più domande rispetto a certi temi che fino a pochi decenni fa proprio non emergevano nel discorso. Cioè io riporto molto il discorso a me stessa. Io posso al massimo definirmi un'alleata della comunità LGBT+, perché sono una donna bianca, eterosessuale, cisgender, di mezza età, benestante, con corpo più o meno conforme, ho un sacco di privilegi e me ne rendo conto. Però, come molte persone, nella fase adolescenziale, insomma, o della prima adultezza, o forse adolescenza, perché non sono mai del tutto uscita da quella fase lì, le mie domande sul mio genere e sul mio orientamento sessuale me le sono fatte. Però se ci ripenso ora, diciamo 25-30 anni di distanza, mi rendo anche conto che il mio unico orizzonte degli eventi era volto alla possibilità di essere omosessuale o casomai bisessuale. Sul genere non avevo gli strumenti per farmi certi tipi di domande. Cioè, non sapevo dell'esistenza di altro oltre alle persone che decidono di fare la transizione verso l'altro sesso, no? Quindi la figura transgender tradizionale. Cioè, ai miei tempi era così, ma diciamo che per il grosso della stampa italiana è ancora così, perché se pensate all'estetista che con le sue punture di silicone ha ucciso una donna, no? Qualche settimana fa, sui giornali continuano a chiamarla il trans, la trans variabile, perché poi chi se ne frega, no? Non c'è bisogno di occuparsi di come si parla della comunità trans, no? Chiamiamola così, anche se ormai è noto che usare trans come sostantivo è offensivo, è un'aggressione, neanche tanto micro, è un'aggressione, ok? Quindi c'è tanto bisogno di lavorare. Allora, quello che succede adesso è si parla di più di questi argomenti e forse più persone si fanno delle domande in questo senso. Vi faccio solo un esempio specifico. Per un saggio che ho scritto recentemente e che uscirà, forse, piccolino, non un altro libro, ho dato un occhio ai prodotti pop che sono in circolazione in questo momento e che moltissimi giovani guardano con grande interesse. Uno è Sex Education e uno è Euphoria, che sono tutte e due serie che riguardano appunto teenager o giovani adulti, e in entrambe compare l'omosessualità, compare l'intersezionalità. Sex Education c'è un personaggio nero gay e quindi c'è tutta la sua epopea, se vogliamo chiamarla così. C'è anche il bullismo indotto dall'incapacità di fare coming out, e quindi insomma ci sono molti temi che si intrecciano. Ce n'è uno fondamentale che è il sesso con una persona con disabilità, che anche questo è molto poco discusso, e in quella serie invece è presentato in maniera secondo me molto, molto realistica e anche non pietistica, perché Dio ci scampi e liberi dall'inspiration porn che pervade tutta la narrazione, soprattutto delle persone con disabilità, ma non solo, in realtà di tutte le persone non conformi. Dove sei arrivata da nera? Ecco, quel genere lì, no? Un po' Ethan lo diceva che è pulito per essere un nero, no? Quello che diceva Biden di Obama. Tutti questi sono esempi anche di inspiration porn. Cioè, lo prendiamo esempio a quel punto, no? Questo Cristo che è sulla croce, quindi dobbiamo guardarlo come un esempio. Poraccio. Comunque, nella terza stagione, mi sembra, di Sex Education emergono due personaggi non binary, non sono molto sviluppati nella serie, però c'è una scena fondamentale che secondo me serve molto a veicolare il disagio che a volte non ci rendiamo conto appunto di provocare a persone da genere non conforme. La direttrice della scuola, la dirigente scolastica della scuola dove si svolge tutta la serie, organizza un corso di educazione sessuale di quelli molto tradizionalisti, per cui alle ragazze viene presentata la testimonianza di una giovanissima rimasta incinta, e quindi di come questa gravidanza le ha rovinato la vita, e quindi il messaggio è l'astinenza. Questo è molto 1984, Cioè, no, perché stavo rileggendo il saggio sulla neolingua ieri in classe con i miei studenti, e parla proprio di questo, cioè del buon sesso e di tutto quello che non si può invece fare, compreso il sesso a scopo di piacere, perché il sesso è solo riproduttivo, altrimenti astinenza. Comunque fa due file, no? Maschi di qua e femmine di là. Arrivano queste due persone non binary, vanno dalla dirigente e le dicono: noi siamo non binary, dove andiamo? E lei le guarda, hanno una parvenza vagamente più femminile che maschile, cioè io mi posso immaginare le formule matematiche nella testa di questa persona, dice: potete andare con le ragazze. E ovviamente queste due persone non binary ci rimangono abbastanza male. Cambio film, Euphoria, ci sono due protagoniste fondamentali, una Zendaya, Rue, l'altra è Jules, impersonata da Hunter Schafer, sia il personaggio sia l'attrice sono transgender. E se vi interessa farvi una cultura sulle microaggressioni anche a persone famose, andate sul profilo Instagram di Hunter Schafer, che fa anche la modella, e quindi la vediamo in giro per le cose di Prada in questo momento, e moltissimi commenti sono del tenore: sì, sei bella, but you are a dude, ma sei un uomo. Cioè, tu vai, ti prendi la briga di andare sotto un post di un personaggio come Hunter Schafer per ribadire, ok, che sei un uomo, cioè non sarai mai una vera donna. Poi ci sono molti altri casi che ho trovato di serie che si occupano di persone di genere non conforme o persone non eterosessuali, quindi insomma non eterosessuali o non cisgender. E il quadro che ne emerge è che se questa roba è arrivata nei prodotti pop, vuol dire che qualcosa effettivamente sta succedendo, che tutta la, come si può dire, tutto il fermento che c'è intorno a queste questioni non è calato, non è arrivato improvvisamente, è qualcosa che è montato e che a questo punto anche in Italia sta arrivando a maturazione. Questo non toglie che, grazie a Manuela Manera, che è molto attiva sui social e molto attenta a queste questioni, e a notare quindi i momenti di aggressione, proprio nell'aprile 2022 sia successo che un recensore, recensendo il nuovo disco di Kae Tempest, cantante che nel 2020 ha fatto coming out come persona non binary, potesse scrivere e venire pubblicato così: scrittrice, poetessa, drammaturga, attivista LGBT and, questo and io non l'avevo mai visto, cioè di solito è plus, non è e commerciale, LGBT e commerciale, non so cosa voglia dire esattamente, eh? È la lobby, sì, e rapper. Nell'estate 2020 Kate Tempest ha cambiato nome in Kae, quindi usa il dead name, e si è dichiarata non binaria, fra virgolette, vale a dire che, seguendo l'ideologia cosiddetta gender, non si riconosce nelle tradizionali distinzioni sessuali di genere maschile e femminile, e ha chiesto di indicare la sua persona con aggettivi asteriscati e pronomi al plurale, in modo da camuffare il più possibile la sua identità biologica. Ora, se questa roba esce senza che nessuno gli metta una mano sulla spalla a questo signore e dica: ascolta, forse non è il caso che tu scriva queste cose su un giornale, se questa roba viene pubblicata abbiamo un problema. Non è solo una questione di microaggressioni, è la questione di non voler vedere quanto la nostra società sia ostile a queste cose, e siccome il potere sta lì e chi detiene questo maledetto potere non si rende conto di tenere un potere, ecco che questo è un circolo vizioso contro il quale bisogna cercare di fare tutto il possibile, perlomeno di protestare. Perché se no si continua a pubblicare libri contro lo schwa, prendendolo come capro espiatorio. Lo schwa è un sintomo, non è una soluzione, però è sintomatico anche che negli ultimi 4 mesi sia uscito un pamphlet intitolato La lingua scema, con lo schwa in copertina, e adesso ne uscirà un altro dal brillante titolo Così non schwa. Aspettiamo un altro, così ci sarà la trilogia dei libri contro lo schwa con lo scherzonone nel titolo. Cioè, fatelo il vostro saggio contro lo schwa, ma magari dategli un titolo che non contenga il pun, no? Perché forse potremmo anche superare questo livello della discussione. Comunque, io mi sento molto vicina a queste cose, mi sento forse molto vicina a queste istanze per una questione anche mia biologica personale. Ho una figlia, 14enne, che non ha mai espresso per ora uno schieramento in questo senso, cioè non mi ha mai detto io sono, però mi ha anche detto: guarda mamma, che questa roba di maschile e femminile è tremendamente da boomer. Noi 14enni siamo fluidi, ciao mamma, cioè per l'esattezza ha detto ciao mamma, noi siamo fluidi, cioè queste cose, maschio e femmina, sono cose da boomer, no? E questa cosa mi ha dato da pensare, per fortuna noi ne parliamo, però so anche che ha molte persone attorno a sé che hanno magari genitori molto meno attenti o aperti a queste questioni, però quella generazione lì è così che sta venendo su, ed è inutile che quindi vari ricolfi, vari tendenzialmente persone bianche, etero, cis, di mezza età, dicano che tutto questo è l'inizio di una dittatura, che c'è il pericolo di non poter più dire nulla. Intanto il nuovo avanza, e quindi se posso lasciare un mio messaggio di speranza è che la goccia scava la pietra, e che non sarà questo, come dire, questo urlare misto a sghignazzare che toglierà forza a queste istanze. Quindi io spero che di lasciare, ecco, anche a mia figlia una società in cui queste cose non siano più oggetto di discriminazione. Finché questo invece, finché le discriminazioni su base di genere e su base di orientamento sessuale esisteranno, no che non basta tornare al maschile sovraesteso, anche se piacerebbe tanto a tante persone. Il maschile sovraesteso sicuramente è la soluzione linguisticamente più facile, ma è una soluzione che secondo me possiamo abbracciare serenamente solo nel momento in cui le questioni di genere non rappresentassero più un motivo di discriminazione. E al momento direi che siamo ben lontani.